se volete la verità. Andate dentro voi stessi, amici, perché quello è l'unico posto dove troverete mai la verità vera. Da noi non potrete ottenere mai la verità. Vi diremo tutto quello che volete sentire mentendo senza vergogna. Noi vi diremo qualsiasi cazzata vogliate sentire. "24 mattino" di Alessandro Milan. Io dico sempre la verità, anche quando dico le bugie. What's in your eyes? I saw them flashing like airplane lights. You fill my cup, babe, that's for sure. Must come back for a little more. Ci sono rimasto male non dell'arresto, ma del fatto che magari tutto il lavoro di tante tante persone, tutti gli attivisti, dagli attivisti al gruppo parlamentare di questi mesi, mi faceva male l'idea appunto che potesse essere pregiudicato dal comportamenti di uno che tra l'altro col Movimento 5 Stelle non c'entra niente, perché questo soggetto, questo Marra, non è che uno del Movimento 5 Stelle. Alle volte siamo ingenui, sì, spesso. E onestà e ingenuità camminano assieme. Io penso che il disonesto non sia mai ingenuo. Tutto il movimento, ve lo garantisco, ha suggerito, ha chiesto con modalità diverse appunto a Virginia di allontanare questo soggetto, e lei, la verità, è che si fidava di questo personaggio, si è sempre fidata. Questa è la versione di Di Battista, il Dibba, per il 5 Stelle. Però ragazzi, qui parliamo di Roma, Milano, guardiamo le cose italiane, ma dovremmo allargare un po' gli orizzonti, perché ci siamo dimenticati che, come ha twittato su Twitter poco fa la polizia di Berlino, è un presunto attacco terroristico quello che è avvenuto ieri, con un camion che fende la folla di Berlino ai mercatini di Natale, no? Immaginate quelli con i vini speziati, con tutti i dolci. Quanti sono i morti? Forse 9. No, 12. Ma ci sono una cinquantina di feriti. Tra l'altro a bordo c'erano due persone a bordo di questo camion. Uno probabilmente era il camionista polacco, che forse è stato sequestrato e ucciso dal presunto terrorista afghano, pakistano. Ancora non si capisce bene, eh? Qualcuno dice ceceno. Poi invece ci si sposta un po' più a est, in Turchia, dove, come in un mondo così irreale, alla James Bond, avete visto questo che ha sparato l'ambasciatore russo in Turchia, urlando frasi, questo è per Aleppo, Siria, e freddandolo alla schiena un poliziotto turco, che poi a sua volta è stato ucciso dalla polizia turca. Tutto in diretta, eh? Ormai siamo nell'epoca dove bisogna vedere tutto, anche l'uccisione in diretta dell'ambasciatore. Buon Natale, eh? Buon Natale a tutti. Sono le 6:32 minuti. Siamo qui a 24 mattino. C'è Peter Bescapè in regia, c'è Lorenzo Nespoli in redazione e siamo qui. Intanto voglio salutare il nostro scrittore, alpinista, scultore preferito, il grande Mauro Corona. Buongiorno Mauro. Buongiorno, Corona. Buona mattinata. Malatempora, eh? Malatempora, mamma mia ragazzi, malatempora. Allora Mauro Corona, le voglio presentare quella che io chiamo la lingua biforcuta, anche se lui non vuole, del Parlamento italiano, l'onorevole Maurizio Bianconi. Buongiorno. Buongiorno a voi, buongiorno Milan. Buongiorno e ben trovato. Allora, okay. Bianconi è un fittiano, anzi no, è Fitto che è un bianconiano. Bianconiano, sì. È Fitto. però Corona lo conosce, era anche prima grande amico di Berlusconi, Bianconi, poi si sono un po' persi per strada, insomma, così. Però va bene, allora noi ci sono tante cose italiane di cui dobbiamo parlare, anche del ministro Poletti, signori, il ministro Poletti. Però aprendo il Parlamento, prima voglio chiedere... Allora, ragazzi, se uno esce per prendere un caffè e gli state sopra... A Mauro Corona qualcosa di quello che sta succedendo? Mauro Corona, lì sulle montagne, dove non so se si trova sulle montagne in questo momento, in giro per l'Italia. Sì, sono sulle montagne. Ma questa una visione da lì di quello che succede, questa roba? Una visione da qui, è come guardare la visione da qui. Non è quanto si vede, è quanto si subisce. Qui non è mica firmato. Questa è montagna abbandonata, povera, dove chiudono le scuole, chiudono la posta, chiudono gli asili. Cioè, tutto quello che succede al centro. E poi si dirama anche nei piccoli paesi, perché noi dipendiamo da Roma, dall'Italia, dalla conduzione amministrativa delle cose. Per cui è chiaro che il problema a Roma è all'attenzione di tutti, ma se allunghiamo lo sguardo dalla montagna, vediamo che anche qui c'è delle difficoltà che nessuno vede. Sì. Si parla di Roma, si parla di Milano, si parla dell'Expo, si parla anche di chi non si parla nulla. Niente, le periferie del mondo. La mia amica Serracchiani, sì, quando la votammo, io mi sono dato da fare per farla votare, mi sono dato da fare anche per mandare in malora Renzi, ecco, aveva promesso alla Marcellina, che Claudio Magris definì patria orrida e tenera, ecco, aveva promesso qualcosa. Si stanno muovendo i paesi come Claud, Cimolais, Barcis, Andreis. Morendo. Quindi è pentito di aver votato Serracchiani. Ma certo che mi sono, ecco, mi pentì anche ad aver votato Renzi, perché sì, fino, cioè Renzi, scusi, anche quello votai, Renzo Tondo, perché qui vengono a voti, perché sono 2000 voti, la Valcellina non sono pochi, se siamo 50 pari. E quindi io devo fare vedere anche queste cose, perché questi sono paesi abbandonati dallo Stato. Vengono lì a chiedere i voti ogni tanto, vengono ogni 5 anni. Perché bastano pochi voti anche, insomma. Quando fu votato questo ultimo, non le ultime votazioni ovviamente, poi non ce ne sono più state, ebbene, chiesi aiuto a un politico, per fortuna, del pianeta finito in miseria ora, ma era un politico che No. Se lo dico ti vanno subito alla denuncia. Queste persone, se si guardassero allo specchio, ti chiederebbero i danni morali a loro invece ti denunciano e poi ti chiedono i danni morali. Sa cosa mi rispose questo fallito? Cosa vuoi che me ne freghi della Valcellina? I voti della Valcellina li piglio nel mio condominio. A me interessa queste zone. E chissà, adesso andiamo alla caccia. Bianconi, chi sarà questo politico fortunatamente finito in miseria? Diciamo. Miseria politica, Miseria politica. C'ha i suoi vitalizi, c'ha le sue paghe, le sue prebende. In miseria politica. Perché alla fine la gente non lo dai abbindolando con le chiacchiere. Avete visto Renzi cosa ha fatto? Chiacchiera e poi la notte. Qua abbiamo il miglior amico di Renzi, Maurizio Bianconi, insomma. La politica non è una squadra di calcio che bisogna essere fedeli. Se uno sbaglia, chiaramente era ironico il mio Bianconi. Bianconi è il peggior nemico politico, il peggior avversario politico. Io appena venne sulla scena politica andai a una trasmissione televisiva e dissi: appena lo vedete subito capite che è un cazzaro, che è un bugiardo, ma un imbroglione, ma insomma, dopo 6 mesi capite che è un truffatore e dopo un anno capite che è pericoloso. Ho sbagliato un po' di tempi. Vabbè, adesso va, però torna, stai tranquillo, torna Bianconi. Però l'accusa di Corona, Bianconi, non sei Bianconi fa la politica, fa la politica a Roma, e Corona dice Roma, Milano e i piccoli paesi dove rispondo volentierissimo, perché lui mette il dito sulla piaga. Cioè, più che la società è, diciamo così, dispersa e segmentata, e più costa. Quindi ogni politico, quando prende il voto, capisce che c'è il, diciamo così, bisogno di aiutare le comunità. Di andare nel paesino, andare a prendere il voto. Quando si mette lì, capisce che una guardia medica in un paesino costa molto di più, la toglie, la toglie. E via via tolgono tutti i servizi a 100 euro. Ho capito. È una cosa tremenda questa qui, che viene fuori da un concetto di società che secondo me è sbagliato. Io l'ho combattuto tutta la vita, io abito, ho abitato tanti anni in una provincia che da parte a parte ci vuole 6 o 7 ore per farla, però ha solo 300.000 abitanti, quindi conosco bene questi problemi. E sono problemi veri, sostanziali, che non riguardano quella valle o quel punto. No, riguardano proprio il sistema, come è fatto il sistema statale. Il sistema, essendo un fatto di costi, la gente vorrebbe però il condominio. Io vorrei fare un piccolo identikit, ma per caso Corona inizia con la G di Genova, quel politico finito in miseria? No, non posso dirlo perché poi la G di Genova è una giusta. Una volta quando c'erano delle offese si sfidavano a duello, no? adesso ti citano. Pare che io sono stato denunciato da un politico. L'ho risolta bene, perché ho detto che avevano distrutto un bosco, però ho detto che erano stati dei coglioni, perché hanno tagliato l'albero sul quale stavano il ramo, sì, su cui stavano seduti. Denuncia. E sa come ha detto il giudice? Se lei, Corona, diceva che avevano fatto una coglionata, ecco, lei non era non era denuncia. Invece capite, coglione. Capite che questi si stanno creando un feudo. Da dove, se sbagli parola, sei questa democratura, come diceva Petra Mattievi. Certo. E quindi ho dovuto rispondere. Ha dovuto pure pagare, Corona. No, l'ho risolta senza, ha pagato l'avvocato ovviamente. Ma certo, no. Come ha pagato l'avvocato? Allora i vari politici che si sentono nelle risse, che si dicono addirittura poco l'altro ieri hanno detto faccia di culo. Detto io sarei agli arresti. Sono stanco di democratura, la gente deve svegliarsi. E infatti questa cosa, per esempio, Giachetti ha chiesto scusa, sentite qua, ha non detto basta la scusa, mi è scappata la frizione, mi è scappata, che cosa, le scorregge della bocca. No, senti qua, Giachetti al netto del fatto che, come le spiegavo anche privatamente a Roma, c'è una battuta che dice mi è partita la frizione, nel senso, a me questa cosa mi ha mandato al manicomio. Frase ovviamente poi non era il mio stile, io normalmente mi dispiace, ho già spiegato che era una cosa che nasce dal fatto, però vabbè, che al Corriere non si può dare una rappresentazione. Ha detto ho perso la brocca, ma qua abbiamo Bianconi, rivendichiamo l'idea della faccia da culo, anzi qua noi non solo rivendichiamo la faccia da culo, ne abbiamo anche istituito un premio da 2 giorni. Avanti. Hai la faccia come il culo. Avete la faccia come il culo. Oh, dai, Bianconi, il premio faccia da culo a chi lo mandiamo questa mattina. E poi no, anche con il premio. Ad oltranza i diretti della Bosco. Vabbè, il Bosco c'ha un'ossessione, Bianconi. Non si può dire. Io sono veramente di questa cosa qui. Sono veramente fuori di senno. Ma questi hanno promesso all'Italia che se ne andavano. Dopo 3 giorni sono andati, come detto io, sono andati un momento a casa per un cambio di biancheria, e come si sono lavati il muso e sono tornati lì. Ma sono cose incredibili. Cioè, come fa la gente a credere alla politica quando il segretario del più grosso partito italiano, che era stato di Berlinguer, quel posto che ha occupato lui, viene e ci piglia per il culo in questa maniera? Io sono un fallito, se me ne vado, smetto. Dopodiché viene e dice non l'ho perso. Vabbè, perché se perdevo andavo. Ha detto straperso. Siccome ho straperso mi pago. Adesso ci saranno le elezioni, le elezioni si candiderà. Non è ammissibile. Questa è una cosa inammissibile. Vabbè, Renzi e Boschi. Mauro Corona, chi dà il suo premio? Il suo premio faccia da culo. Qua possiamo farlo, non c'è problema. A chi va? C'è una bella scelta. Da buon misogino non l'ho alla voce. Ma perché da buon misogino? Perché sono misogino. Ma perché? Ognuno nasce con le proprie malattie. L'ho curata, ma istintivamente sono misogino. ma cosa le hanno fatto le donne? Ci sono tantissime ascoltatrici che ci stanno ascoltando. Senta, a me, io sono avuto una vita sfortunata, quindi parlo per me, non faccio l'esempio di tutta l'umanità o degli italiani per e delle carità, italiane. Per quelle che mi hanno detto ti amo, mi hanno reso la vita un lavoro usurante e un inferno. Quindi, questa è la realtà. Oh, ho proibito dal notaio che mi si dica ti amo o ti voglio bene, ma arrangio io. Vabbè. Ecco. Beh, ma questa è fantastica, Bianconi. L'ha curata, però, ha cercato di curarla. No, questa. Questa. Vabbè, è andata male in amore. In amore non è andata benissimo la vita. Ma credo di a tutti, ma no, credo a tutti, dai. No. No, ma io penso che sul 90% dei casi abbia ragione. Eccolo là, siamo vabbè. Quando si cede al sentimento più o meno si piglia sempre l'entichietta. Allora, ecco, Corona è anche, lo abbiamo detto, abbastanza, è vagamente lombrosiano, perché per lui, per esempio, allora, visto che sono le due città, Sala e Raggi, Corona, Sala, lombrosianamente. Ma premetto una cosa che non c'entra con la nostra romana, poi arrivo a Sacchi. Ieri ho visto una vignetta sul Fatto, io sono abbonato anche al Fatto, e c'era la vignetta con la Raggi che dicevano la testa ce l'ha o serve solo per dividere le orecchie. A me disturba, la satira mi piace e deve essere fatta, ma quando si tocca diciamo il fisico, che può essere un difetto, un'anomalia, una cosa, quello non mi garba più, quello non mi va più. Rispetto a loro sono molto lombrosiano e spero venga rivalutato, perché l'essere umano dipinge su di sé quello che ha dentro. Il nostro volto è come la scatola nera degli aerei, registra tutto. E Sala a me non mi è mai piaciuto, proprio, ma lombrosianamente, questo viso che quando gli scappa l'autocontrollo si vede proprio una certa torvità, un viso torvo. Ma che forse può essere anche l'uomo più buono del mondo, a me non mi piace su, e lo dissi, mi pare, a questa trasmissione, ancora quando conduceva l'Expo. Ovviamente lì ci sono gioco di milioni e milioni di soldi. Non è mica detto che abbia fatto qualcosa, sia provato, ma come viso, lombrosianamente, non mi piace assolutamente. Non piace. Allora, facciamo così, dobbiamo andare al traffico, poi, caro Bianconi, voglio ripartire da Poletti, ma avete sentito cosa ha detto Poletti? Ha detto praticamente che, parlando dei giovani che sono andati all'estero per cercare lavoro, molti di loro, sostanzialmente, alcuni di loro, meglio non averli tra i piedi, meglio che se ne siano andati, l'Italia non sentirà la loro mancanza. Poletti è ministro del lavoro. Alino, manda il traffico, dammi il traffico, por favore, il traffico! Nell'omicidio di Garlasco ci sono voluti 10 anni per capire che il DNA non corrisponde a quello di Stasi. Non capisco. Buongiorno a tutti i bulgarini, una buona settimana e un abbraccione al mitico Milan. Milan, visto che al referendum ha vinto il no, non sarebbe il caso di ricominciare il conto delle settimane decisive per l'abolizione del Senato? C'è bisogno di fare il partito del noi, perché abbiamo visto che col partito dell'io si va a sbattere. Mi sembra che il referendum abbia fatto capire con chiarezza che col partito dell'io non si va da nessuna parte. Oggi si tratta di capire se riusciamo a costruire invece il partito del noi. Questo è Roberto Speranza, mamma mia che noia il dibattito. Il PD, la legge elettorale, che noia mortale. Allora siamo con Mauro Corona e siamo con Maurizio Bianconi. Allora, caro onorevole Bianconi, il ministro del lavoro Poletti, perché ci vedono un po' così gli uomini potenti, anche a Bianconi lo mettiamo, vedono i giovani un po' sfigati, un po' rompiballe, così da tenere anche sotto il gioco, dai, diciamo la verità. No. Questo Poletti, lombrosianamente diceva Corona, lombroso ha commesso l'errore di ridurre la scienza, quella che invece è un'impressione, insomma. E basta guardare Poletti e si capisce un sacco di cose, è quello che ha detto quando dicevano del referendum del Jobax, Ma noi ce ne freghiamo, andiamo in elezioni anticipate. No, perché allora Poletti ha detto questo. La prima frase non è neanche sbagliata. Ha detto 600.000 giovani se ne sono andati. Non è che sono rimasti qui in Italia 60 milioni di pistola, in pistola, senso di incapace, eccetera. E però poi ha aggiunto: conosco gente che è andata via e che è bene che stia dove è andata, perché questo paese non soffrirà ad averli più fra i piedi. Ma chi pensava? Cioè, c'ha un nipote che gli sta sulle balle, non lo so. A chi pensava? La gente che va via da casa sua è sempre gente che soffre qualche cosa, perché nessuno o pochissimi vanno via volentieri. Insomma, vanno via perché poi trovano soluzioni di lavoro che sono più vantaggiose. Ma noi abbiamo tantissimi che ci ascoltano dall'estero. È un motivo. Lui è stato presidente una vita delle cooperative, ha capito? Sì, e allora ha una certa concezione delle persone, che primo prenderle per il culo, dire che fanno il loro interesse e poi invece fanno l'interesse dei cosiddetti dirigenti delle cooperative che hanno fatto gli imprenditori con i soldi degli associati. E lui è quello lì. E non solo. Ma sì, ma cosa c'entrano i giovani? Ah, tra l'altro noi abbiamo... i giovani perché gente che... Ma noi abbiamo... non vuole fra i coglioni gente che ha l'iniziativa, che ha voglia di lavorare, che ha voglia di impegnare. No, tra l'altro, tra i nostri ascoltatori, noi ne abbiamo tantissimi dall'estero che ci seguono, sono tutti giovani, ingegneri, lavoratori, gente che è andata all'estero. Perché... Guardi che la cooperativa è una delle più grosse invenzioni italiane, diciamo. Ed è stata da questi personaggi completamente stravolta. È diventata un predellino, una rampa di lancio per un sacco di persone mediocre. Niente, Bianconi, il predellino ce l'ha qua. No, sì, è vero, ha ragione. Il predellino ce l'ha qua. Sì, ecco, sì, no, vabbè, un ma... sacco di gente... volevo capire, aspetta, Corona, che ne pensa del ministro Poletti che dice alcuni giovani meglio che siano andati... Non averli tra i piedi. Sono frasi che parole che un politico dovrebbe trattenere perché sono autogol. Poi io citerei una frase di Borges, però la cambio alla fine. Diceva: tutti i giovani sono geniali finché non cercano la mediocrità imitando gli adulti, Enrico imitando Poletti, e nella maggior parte dei casi la trovano. Adesso. E nella maggior parte dei casi la trovano. Non può dire una frase. Io guardi, sono un povero diavolo, sono sempre stato un uomo di sinistra, anche se la sinistra che intendevo io non c'è più, però non metterei i ragazzi dai 20 ai 30 anni a governare l'Italia, hanno capacità, fantasia, coraggio, spirito imprenditoriale, e io ci proverei. Questi qui non vogliono andarsene ma Corona, ma li vede, sono tutti come Bianconi, poi li attaccati al Parlamento. No, ma certo, sentite, nessuno ha ordinato a qualcuno di tu devi fare politica altrimenti vai in galera. Se la fanno devi prenderti anche i tuoi rischi. Sì. Io proporrei una paga, no? 3.000 euro netti a politica. Voglio vedere quanti vanno a fare ancora politica. Eccolo lì Bianconi, questa lo fa arrabbiare. Questa è la classica cazzata. Ecco. E glielo spiego perché. Perché uno va, lavora in comune e piglia 1.000 euro, 3.000 euro gli sembrano tanti. Allora, se uno fa il medico, il dottore, nessuno gliel'ha ordinato a fare politica. Ma guardi che Giovanna D'Arco, furbetto. Poi lei ogni tanto scivola nel coglione, perché quando si assume con delle Aspetta Bianconi, che vuol dire? Che vuol dire? Una proposta di legge. Nella quale ho scritto che il politico non deve avere alcun emolumento, se non per quelli bisognosi il triplo della pensione sociale, perché nessuno ce l'obbliga di fare politica. Questa è una scelta, ma che lei mi dia uno stipendio come fosse un funzionario dello Stato, mai. Cioè niente, voglio niente. non voglio essere misurato a 3.000 euro. Non sono un piuttosto morto niente, beh, niente. Adesso un morto non di fame, voglio no. niente, ma non voglio questa demagogia. 3.000 sono troppi. 3.000 sono troppi o sono pochi? È uno stipendio. Non voglio stipendi. Voglio, ma... come lo statuto Albertino, niente. Niente. Apri un conto corrente, se sei bravo, i tuoi elettori ti daranno di che vivere. Se no stai a casa. Niente. Corona Bianconi dice a me niente, non voglio niente, però ma di tutti fatto non vogliono niente, però se li tocchi il portafoglio fanno salti mortali, vabbè intanto vabbè Corona si può capire allora se iniziava con la G di Genova quel politico finito in miseria? Non voglio sbilanciarmi perché ma l'iniziale fortuna... ma le ho chiesto no, l'iniziale se dico l'iniziale ci arrivate scusate dai, ma perché scusa dall'iniziale? Comunque mi dice così e se me lo trovo davanti voglio dirgli in faccia sono felice che sei finito nella merda. Ma è Veneto. Finisce con la N di Napoli? Finisce col stare zitti. Niente Bianconi, niente, non lo scuciamo mezza lettera. Sono stato scottato, non posso mica espormi di nuovo. Vabbè, ho capito, ma dire l'iniziale non è mica... Comunque mi disse così, i voti della Valcellina li piglio nel mio condominio, non me ne frega, e disse anche la parolaccia. Non me ne frega un ca della Valcellina. Portiamo 2.000 voti. Quello che dice lei, Milano, ci sta, che sia lui. Perché che... queste frasi ce l'aveva, Ma che lui, che io ho detto se inizia con la G. È quello lì che dice lei. Io non ho detto nessuno. Ho chiesto se inizia con la G. Va bene, finisce con la N di Napoli. Non è che ho detto niente di più, niente di meno. In tutto questo, abbiamo 2 minuti. Caro Mauro Corona, è pronto ad aprire il portafogli? Giusto perché tocca. Perché adesso lo Stato è pronto a dare 20 miliardi per Montepaschi. Ormai è quasi certo, cioè nel senso il decreto è pronto. Bisogna salvarla, bisogna fare il salvataggio pubblico. Perché la quotazione, diciamo, la collocazione privata, secondo noi, mi sa che non va bene, dicono i giornali, e quindi bisogna. C'è il rischio che si possa salvare Montepaschi con soldi pubblici. E la popolare di Vicenza, con tutta quella gente ridotta sull'A, disperati che piangono, come facciamo? Non lo so. Io non lo so, personalmente, se mi mettono una tassa per salvarlo, ti tirano dentro tuo malgrado a pagare quello che non vorresti. Non è che le suonano a casa per chiedergli, al limite se li ritrova da qualche parte. Questa è la democratura di Pedro Mattiev. Tu metti delle persone che ti dovrebbero rappresentare, che ti dovrebbero rendere la vita meno infame, e invece poi entri in un meccanismo che o ubbidisci o vieni denunciato o vieni veramente maltrattato. Questa è l'Italia, una democratura, per non dire ormai dittatura. Un mezzo mezzo, come ci ha spiegato a volte. Bianconi, è pronto a tirar fuori un po' di soldi? Va bene. Sono soldi privati messi al servizio di un istituto bancario che è servito al PD in Toscana e in Italia per fare i cavoli suoi, a partire dalla Banca del Salento di D'Alema, di buona memoria, e a tutto quello che hanno combinato in Toscana. Noi paghiamo la banca che è servita al PDS, al PD, al PC per fare i cazzi suoi in Italia. Eccola lì. E se succede, che fa lei? È una cosa vergognosa. Però paga. Come tutti. Cazzo, come faccio a non pagare? No, guardi, non pensi che sia un'espressione maleducata, è un'espressione greca che indica stupore e meraviglia. Stupore e meraviglia, va bene. Con questo stupore e meraviglia io vi devo lasciare. Vi ringrazio, la coppia più pazza del mondo, mi piacete tantissimo. Mauro Corona e Maurizio Bianconi, grazie per essere stati con noi anche a battagliare così. Di Primo Mattino, ora andiamo al giornale radio, poi rientriamo con la rassegna stampa. State con noi. Hai la faccia come il... Anche stamattina andiamo a leggere i giornali di Milano, anche quelli di Roma, di Napoli. E me ci mettiamo pure quello della Sicilia, perché queste cose fanno schifo quello della Sicilia. 24 Mattino. Ci siamo, cari ascoltatori, alle 7:18 minuti, appena finito di rispondere su WhatsApp a un ascoltatore, così. Lui sa. Allora, siamo qui per la rassegna stampa di 24 Mattino, lo spazio di lettura dei quotidiani,